Nell'anno 14 del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, attaccò tutte le città fortificate di Giuda e se ne impossessò. Il re di Assiria inviò il gran coppiere da Lachis a Gerusalemme al re Ezechia con una importante scorta. Egli fece sosta presso il canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Gli andarono incontro Eliakim, figlio di Chelchia, maggiordomo, Sebna, lo scriba, e Ioac, figlio di Asaf, l'archivista. Il gran coppiere disse loro: «Riferite ad Ezechia. Così dice il grande re, il re di Assiria, che è questa sicurezza in cui confidi? Ti immagini forse che la parola delle labbra equivalga al consiglio e alla bravura nella guerra? In chi poni la tua fiducia per esserti ribellato contro di me? Ecco, tu confidi nell'Egitto, questa canna rotta che penetra nella mano, e la forza se qualcuno si appoggia su di lui. Così è il faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che si fidano di lui. E se mi dite: noi confidiamo nel Signore nostro Dio, non è forse lui di cui Ezechia rimosse le alture e gli altari e disse a Giuda ed a Gerusalemme: solo davanti a questo altare voi adorerete? Orbene, impegnati col mio Signore, il re d'Assiria, ed io ti darò 2000 cavalli, se tu potrai fornirmi dei cavalieri per essi. E come potresti tu respingere anche uno dei più piccoli servitori del mio Signore? Eppure tutti i figli dell'Egitto per i carri ed i cavalieri. Ho forse marciato contro questo paese per distruggerlo senza la volontà del Signore? Il Signore mi ha detto: marcia contro questo paese e distruggilo. Allora Eliakim, Sebna e Ioac risposero al gran coppiere: parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo. Non parlarci in ebraico alle orecchie del popolo che sta sulle mura. Il gran coppiere rispose: forse che il mio Signore mi inviò a dire queste cose al tuo Signore ed a te, e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura, ridotti a mangiare i loro escrementi ed a bere la loro urina insieme con voi? Il gran coppiere allora si alzò e gridò a gran voce in ebraico: ascoltate le parole del gran re, del re d'Assiria. Così parla il re: che Ezechia non vi inganni perché non potrà salvarvi. Ezechia non vi faccia riporre la fiducia nel Signore dicendo: certamente il Signore ci salverà, questa città non sarà consegnata nelle mani del re d'Assiria. Non date ascolto ad Ezechia, perché così parla il re di Assiria: fate la pace con noi ed arrendetevi. Allora ciascuno potrà mangiare i frutti della sua vite e del suo fico, e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna, finché io non venga e vi conduca in un paese simile al vostro, un paese di frumento e di mosto, un paese di pane e di vigne. Ezechia non vi illuda dicendo: il Signore ci libererà. Gli dei delle nazioni hanno forse salvato il loro proprio paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dei di Amat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvaim? Hanno forse essi salvato Samaria dalla mia mano? Quelli tacquero e non risposero nemmeno una parola, perché l'ordine del re era: non rispondetegli. Eliakim, figlio di Chelchia, maggiordomo, Sebna, scriba, e Ioac, figlio di Asaf, archivista, ritornarono da Ezechia con le vesti stracciate e gli riportarono le parole del gran coppiere.